Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Totti. Segna anche non ci Totti. Credo. Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Van der Sar. Moie fo cucchiaio. Sono passati 17 anni, caro Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Ragazzi, buongiorno, ma non potete fregarmi così, queste sono emozioni troppo. Storia del caso. Anche tu c'eri? La voce di Puzzi, Pizzolo, onestamente, e lo dico con rispetto assoluto verso le nuove generazioni di telecronisti, nella quale si distingue tale Pizzi. Senti, la voce di Pizzolo eri là quel giorno? No, no, ero davanti al territorio come molti di noi. Come molti di noi. Però moglie faccio il cucchiaio. Moglie faccio il cucchiaio. Storia del calcio. Giorgio De Luca, il nostro autore. Andrea Roccabella in regia. Edoardo Lavezzari in redazione. Ora parleremo con Antonio Giordano dell'Oro di Napoli dopo questa sua lunga intervista ad Aurelio De Laurentiis. Poi parleremo di Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Ve li immaginate un giorno Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito tutti e due insieme di fronte alla commissione antimafia? Belle scene, belle, certo. Bei siparietti. Io l'ho vissuta, Lo so che l'hai vissuta, bei siparietti, cose vabbè, serie, ma anche. Devo dire, modulo... ho visto più De Laurentiis che Lotito, e De Laurentiis è stato veramente bravo. È stato bravo. E sì. ne parliamo dopo. Poi arriveremo a Milano con ciò che stanno facendo Milan e Inter su fronti opposti. Milan continua a comprare, l'Inter domani è il 30 di giugno, c'è cioè questa data fatidica. Insomma, state con noi fino alle 15:30 per tutti i convocati. Intanto, Antonio, partiamo dall'Oro di Napoli, da questa tua intervista a De Laurentiis. Con inversione Jeff Gambardella. Certo. Senti, si parla quasi più di Reina che di Donnarumma. Rinnovo, mica rinnovo. E Rulli, portiere argentino, mi sembra sia l'unico argomento di discussione. Devo dire, a Napoli le cose le facciamo bene. Sì. Perché Donnarumma, ti ricorderò che è napoletano. Certo, e quindi certo, è tutto certo. Il centro di questo mercato è tra i pali di Napoli per la mare di sabbia, sì, onestamente. Ho capito, però c'è una certa differenza di età, c'è una certa differenza di racconti. Ma che sia, in fin dei conti. Ma no, nulla, perché nulla, per carità. La tua impressione qual è? Insomma, Reina... Reina resta, ancora un anno di contratto, che fretta c'è di... Resta con questo contratto, però attenzione, perché un anno fa Albiol rimase con un anno di contratto e a settembre gli fu rinnovato, più o meno alle condizioni dell'anno precedente, sotto il profilo economico. Però fu un riconoscimento alla sua statura all'interno dello spogliatoio, anche alle sue qualità non soltanto umane ma anche professionali. Certo. E quindi Reina viene ovviamente confermato da tutto ciò che è successo negli anni e dal contratto, e potrebbe essere poi confermato anche da se stesso. Certo. Ha ragione il presidente nel momento in cui si interroga, comunque al di là dell'effetto emozionale, del ragionamento di pancia, su un giocatore che parte di 36. Chiaro, 35, ma l'anno scusami prossimo... Antonio, e chiede un rinnovo, correggimi se sbaglio, triennale. Intanto ricordo agli ascoltatori che possono anche vederci sulla pagina Facebook, vederci in video sulla pagina Facebook. Sì, più convocati. O meno c'è il desiderio di un paio d'anni di contratto che vanno verso i tre. Un paio d'anni di contratto che vanno verso i tre per un portiere che ha disputato che è certamente un califfo, è certamente un uomo spogliatoio, certamente un leader, tutto quello che vuoi, ma è reduce anche da una stagione non fortunatissima. Mi sembrano tanta roba, mi sembra giusto che Aurelio De Laurentiis dica vabbè, aspetta, un contratto c'è, poi vediamo. Certo, ed è questo il ragionamento che fa lo stato attuale del presidente, fermo restando che stanno cercando altri profili. Questo di Rulli mi sembra che rientri tra quelli più alti, perché è un giocatore di grande consistenza anche tecnica, nonostante una scuola calcistica che è quella sudamericana, che non è tra le primissime Argentina, nel settore, ma che sì, è in grande evoluzione. Argentino, l'unica cosa che il miglior portiere della Liga, non si discute, non verrebbe però a Napoli a fare il secondo di Reina, mi pare. Ce la verrà a giocare, nel caso. Nel caso viene per giocare, altrimenti vai su un altro profilo, che mi sembra quello su cui è improntato il mercato del Napoli, cioè giovani di prospettiva. La squadra c'è già, è difficilmente migliorabile, onestamente, nei cardini. A meno sì, che non spenda 100 milioni di euro per un giocatore, ecco. Questa la vedo dura. Se si è parlato della suggestione Iniesta, potrebbe servire Iniesta a Napoli, mentre ieri si sono celebrati i 10 anni di Messi. Metterei anche in giardino io. Iniesta serve sempre. Non c'è momento in cui Iniesta non serve. Serve sempre e serve a chiunque, però non è per il Napoli. Serve che il Napoli non se lo può permettere. Anche io sogno un giorno di comprarmi la Porsche. Morirò con questa vana speranza. Vana è vanitosa. Chi può mai dirlo, Antonio? Certo. No, ma piuttosto ieri abbiamo celebrato con enfasi, anche devo dire, ma giustamente, i 10 anni di Mare Chiaro AMSI, che c'è quella foto che ti ricorderai anche tu. Lo stesso giorno venne presentato Lavezzi. Quel giorno c'ero. C'eri quel giorno, ecco, perfetto. Lavezzi in abito blu e Mare Chiaro in infradito bianche. Sì. E i cori del tifosi che urlavano: noi vogliamo vincere, compro qualche giocatore. Non sapevano che avevano comprato uno che stava facendo, avrebbe fatto la storia. Sì, perché sì, credo sì, che AMSI, che è destinato a diventare il giocatore con maggior numero di presenze, indiscutibilmente il capocannoniere della storia del Napoli, è chiaro che ha impiegato più tempo di Maradona e nessuno di noi penserà mai un giorno di paragonare l'uno all'altro. Ma no, anche perché mai l'ha pensato Andre. Però i segni statistici hanno un valore assoluto anche in questo. 10 anni significano non soltanto grande continuità, ma grande attaccamento alla terra. Certo. Amsic certo, poteva andare via varie volte, e non soltanto per le offerte che ha ricevuto da tutti. No, ma ci furono anche dei tentativi di minorare, certo, ti ricordi, di portarlo come via, no, da Napoli, perché avrebbe, ma ci sono state anche soldi, tentativi ambientali, purtroppo, cioè, gli è capitato qualcosa che insomma ha fatto indurre a gridare allo scandalo, una rapina, sì, in centro, e una Castelvolturno. Lui ha capito che purtroppo sono le insidie della vita, sì, possono succedere, non si è mai staccato, anzi, credo che rappresenti la testimonianza di un bel calcio molto romantico, del quale ogni tanto abbiamo bisogno, sentiamo il bisogno. Sì, chiaramente. Senti, prima di salutarti, dammi una pennellata dell'argomento che tratteremo tra poco, e cioè di questa audizione di fronte alla Commissione Antimafia. Ti sei divertito? Immagino di sì. Sì, devo dire che è stata molto formativa, anche per noi, sì, però ha lasciato un retrogusto amaro, perché ci sono stati dei passaggi in cui, e non era ovviamente nel caso del Presidente, né di Andrea Chiavelli, l'amministratore delegato, né dell'avvocato Stajani, in cui chi stava dall'altra parte del banco, non era neanche la Bindi, ma evidentemente la Commissione, qualche cosa dimostrava di non sapere o di confondere nei tempi, nella tempistica, però sono dettagli marginali. Sono argomenti che servono per migliorare il calcio, se lo Stato, come ha detto De Laurentiis, ma come hanno detto anche gli altri, certo, non si dimostra assente. Perché il calcio non può essere soltanto, come dire, rappresentato nel momento dell'enfasi, del successo, il cosiddetto carro sul quale si preferisce salire, né eventualmente nel momento dell'imbarazzo, come le domeniche macchiate dalla violenza. Certo. Il calcio è l'elemento di un paese, di una società civile, che nel calcio trova anche dei validi momenti di divagazione, di divertimento, e qualche merito ce l'ha. Senti, però purtroppo, Antonio, però purtroppo poche cose si fanno. No, ma io, guarda, continuo a pensare che il fenomeno da estirpare in valore assoluto sia questa connessione perversa tra i club e le società. Sappiamo che esiste, è il segreto di Pulcinella, chi prova a combatterlo, come ha fatto Lotito, come ha fatto De Laurentiis, incontra delle difficoltà, Non so, è possibile che lo sappiamo tutti e non lo sappiano loro signori che stanno dall'altra parte del banco? No, infatti, quello che ti dicevo prima. Ma loro che stavano dall'altra parte del banco... Ma dove vivono? Sulla Luna? Va bene che il calcio non lo seguono tutti, ma queste cose un uomo... Sì, ma se non lo segue non può essere argomento di discussione, però. Però lo segui e ne discuti. Però è argomento di malaffare che riguarda questo paese, quindi io credo che un uomo politico, abbiamo avuto anche, inutile ricordarlo, uomini politici molto legati al mondo del calcio, cioè abbiamo tuttora, insomma, non mettiamo la testa sotto la sabbia come gli struzzi tutte le volte, Antonio. No, assolutamente, ieri ha fatto bene De Laurentiis a ricordare che serve la presenza dello Stato in questa vicenda. Ma è chiaro, cioè, è chiaro. Non può essere il calcio argomentazione di riflessione populistica, deve essere una cosa seria, quindi facciamo le leggi, ma le invochiamo tutti da almeno 50-100 anni, io mi ricordo quando non c'ero che già le chiedeva, no? Mm-hmm. E credo che ce ne ricorderemo quando non ci saremo che ancora le invocheranno. Mm-hmm. La tolleranza zero è soltanto, come dire, un titolo per la domenica mattina. Bravo Antonio, sei un grande giornalista, grazie davvero, ci sentiamo grazie presto, voi. Grazie Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Adesso ci fermiamo per il traffico e poi torniamo su questo argomento. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, vi aspetto. Convocati. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Tutti Convocati. Sa perfettamente che errare humanum est, se de perseverare estere bonum. Nel momento in cui perseveri, poi ho detto prima, succede che non c'è più prova d'appello. Allora questi dicono, ma cui protest? In realtà io non sapevo nulla, ma proprio nulla. Quando mi parlavano del 4-4-2 pensavo che era un modo di mettersi seduti a tavola, dico forse ci dovremmo confrontare. Perché il gioco del calcio non è come il gioco del bocce, non conta chi ci va più vicino, devi vincere. Ma devi vincere e capire a quale prezzo. Che poi parliamo di gente che tira dei calci al pallone, non è che parliamo della bomba atomica. Alt! Avete sconfinato. Io faccio il presidente, voi fate i tifosi. Chiunque vuole corcire la mia volontà lo faccio arrestare. Fate come vi pare. E poi qualcuno, voglio il cavalluccio, vi ricordo che il cavalluccio era il simbolo della serenità. Quella dondolo che compro. Questo è stato. Però dopo, è stato così, è vero. Non bisogna mai dimenticarsi che noi viviamo purtroppo in una società dove esiste ancora lo schiavismo. E lo schiavismo molto spesso è determinato anche dalle fasce sociali meno ambienti, che sono degli insoddisfatti, ai quali si dà il contentino del pane circense. Metti un giorno Lotito e De Laurentiis insieme di fronte alla commissione antimafia. L'abbiamo già accennato con Antonio Giordano. Cervello fino e penna finissima prestata. Cervello fino prestato. Per fortuna al giornalismo. Buongiorno Cristiano Gatti. Ciao Carlo e buongiorno a tutti. Metti un giorno per l'appunto questi due signori insieme, casualmente hai sentito, no? in questo blob, questa audizione di fronte alla commissione antimafia, ovviamente il tema è serissimo, collusione tra club e ultra, però non si può non fare anche una tenue risata di fronte a questo siparietto, no Cristiano? Ma perché credo che sia impossibile, siamo nel genere secondo me un po' dell'umorismo involontario, nel senso che Lotito e De Laurentiis noi li conosciamo come tipi pittoreschi, no? Per cui anche di fronte alla situazione più seria, più inquietante, così comunque riuscendo con questi loro scenari coloriti 4-4-2 credevo fosse un modo di mettersi a tavola sì, per cui è chiaro che diventa inevitabile alla fine, non dico non prenderli troppo sul serio, ma sono loro che ti trascinano spesso anche sul piano così dell'umorismo. Ecco, io devo dire per non seguire fino in fondo la deriva dello svacco. Io devo dire che ecco poi in questo modo molto divertente di esprimere, per esempio c'è stata una verità che che quella che io ho preso più sul serio, che è quella che dice Lotito, e dice per troppo tempo la magistratura e la stessa polizia hanno sottovalutato. Certo. Questa è una grossa verità e secondo me è la prima delle spiegazioni. Allora, infatti nella chiacchierata che facevo prima con Antonio Giordano, che ben conoscerai, c'è il fatto che la sorpresa che dall'altra parte del banco sembrava a volte ci fossero delle persone che rappresentano il nostro paese che non capivano esattamente di cosa si stesse parlando. Ora, non tutti devono essere appassionati di calcio, la considerazione che faccio io, però tutti loro signori dovrebbero essere informati su questo fenomeno sociale criminoso che è la collusione tra i club, spesso ostaggi di frange di ultra. Tra l'altro Lotito ha detto anche delle cose tipo questo, ha raccontato questo episodio. Quando io sono entrato dopo 3-4 giorni, la dirigenza dell'epoca mi disse che avrei dovuto incontrare i tifosi, a che io dissi: guardi, facciamo una cosa, incontriamoli in mezzo alla strada. Si sono presentati 3 soggetti e uno in arte si chiama Diabolic, si è presentato e mi ha detto: piacere Diabolic. Io ho detto: piacere ispettore Ginco. Allora quello mi guarda e fa: come ispettore Ginco? Eh sì, tu stai da parte dei ladri, io sto da parte delle guardie. Ecco, poi anche quest'altra di Lotito. In quel periodo, dopo, io sai qual è stato il risultato da quella posizione? Che ci ho avuto un calvario continuo, manifestazioni, attacchi, gli ho detto, le bombe, di tutto mi hanno fatto, no? Allora io che potevo fare? Io era semplice, no? Mi perdoni, facevo quello che succede in alcuni contesti e chiaramente viva il presidente più bravo, il più bello, il più cosa, e la società fallisce, perché questo è il contesto, no? Perché gli frega la gente? Quelli Cicero Prodomo Lora. Io ho sempre detto, nella carta d'identità, professione c'è sta scritto tifoso. Esatto, e poi succede anche questo a Lotito. Non le nascondo ancora oggi, 3-4 volte al giorno, 5 volte pure qualcosa di più, anzi 7 volte al giorno ricevo minacce telefoniche, eccetera, tutti i giorni, eccetera. Vedi Cristiano, questa è una delle ragioni per cui insomma noi stiamo con Lotito. Ora può essere quel che vuoi, però da questo punto di vista è come dovrebbero essere molti altri. Sì, sì, indubbiamente gli va riconosciuto perché accostamento secondo me doveroso con Lotito è che si può veramente ci possiamo divertire quanto vogliamo per il suo modo di esprimersi, per i suoi latinismi, per il suo latinorum e così via. Però insomma rischiamo, ecco, magari di dietro questa atmosfera ridanciana di non vedere più la sostanza. Lotito effettivamente ha campato malissimo per tanto e tanto tempo, ancora oggi vedi che non sono invenzioni, perché tutti, seguendo le cronache, con il lavoro che facciamo, spesso ci siamo imbattuti nelle minacce. Cioè, certo, l'idea certo, che poi certo, sia Lotito l'unico che se le va a cercare è da scartare subito, perché Lotito no, forse è l'unico che ha cercato di stare a busto eretto, altri non hanno di questi problemi, perché poi abbiamo visto dalle inchieste che sono venute fuori così, perché semplicemente sono scesi a patti. Ma è chiaro, con le bande, con le bande, con un atteggiamento stile, devo dire. Poi, come giustamente ha detto ancora, no, alla lunga sia stato anche intelligente scendere a patti, perché poi comunque si entra nella logica che contraddistingue il rapporto tra il poveraccio e lo stazzino, il cravattaro, no? Per sì, cui sì, tu sì. Sei sempre nelle loro mani e no, appena fai per uscire dal... Poi scendi a patti, a quel punto va in questura, consegna di quello che devi consegnare e a posto così. Anche De Laurentiis ha detto delle cose, come lo sentiamo. Mi sono dovuto partire dalla Serie C, insomma arrivare da Hollywood dove stavo finendo un film con Gwyneth Paltrow, Jude Law e Angelina Jolie, e ritrovarmi sui terreni di Martina Franca con gli sputi sulla testa, chiudermi negli spogliatoi per 3-4 ore. No presidente, mi raccomando, stia attento, non esca, ancora non esca. E passavano i minuti, le mezz'ore, le ore. Io l'ho presa a ridere, però pensavo che fosse la Serie C. Poi ho riverificato che questo avveniva anche in Serie B. Poi ho verificato che quando sono arrivato negli alti piani della Serie A c'era un caos totale. Allora era meglio stare a Hollywood, no Cristiano? Viene da concludere con Angelina Jolie. Guarda, la cosa veramente, l'hai accennata tu all'inizio, la cosa veramente disarmante è che sembra di parlare con gente che sbarca, che è sbarcata mezz'ora fa da Marte, perché quest'andazzo non possiamo pensare che sia degli ultimi 3 anni, degli ultimi 10 anni, quest'andazzo va avanti almeno agli anni 70-80, e con le mani anche della malvita sul calcio, perché il mondo delle scommesse clandestine è stato padrone del calcio per tanti anni. E non è escluso che non lo sia ancora, perché anche è una piovra, è la più grande organizzazione planetaria, quello con varie diramazioni, quello delle scommesse sportive clandestine. E allora ecco l'idea che, diciamo che nell'assurdo, nel grottesco di una commissione parlamentare che si riunisce per ascoltare per settimane e settimane di audizioni, verità che qualunque tifoso della strada o qualunque circolo del parasport sarebbe stato in grado di esporre, ecco, sia è quello che è avvilente. Propongo commissione del parasport in antimafia. Magari un ragnetto dal buco lo caviamo. Anche perché veramente ti chiedi ma dove sono stati finora? Non è che il fenomeno assume dignità non positiva, nel senso importanza o gravità, diciamo, solo perché adesso la Commissione parlamentare ci butta un occhio. Il problema è che è arrivata troppo tardi. Lascia stare che di mezzo c'è un pallone, no? Lascia stare. Stiamo parlando di reati di società. Lascia stare il calcio, mettilo da parte. Stiamo parlando di un'altra cosa. E non è che ci siano pochi uomini politici tuttora che siano interessati o coinvolti nel mondo del calcio. Stiamo parlando di un fenomeno criminoso di cui un parlamentare dovrebbe essere minimamente a corrente. Invece, guarda, quello lì è calcio, panem et circenses, come dice. Senti, voglio chiudere con questa bellissima chiacchierata con Cristiano Gatti, con un accenno alla tua città, Bergamo, perché sono stati richiesti 6 anni e 4 mesi per associazione a delinquere, per il solito boccia che tutti ormai conosciamo. Uno dei capi di imputazione è il danno all'immagine della città di Bergamo. Sì, devo dire che non è l'unico che fa dei danni all'immagine della propria città, non serve dare in escandescenza in curva o organizzare. Devo dire che se entriamo su questo terreno è molto scivoloso, perché credo che qualunque città italiana avrebbe qualcosa da richiedere a livello di immagine a tanti suoi personaggi, anche magari più eminenti del boccia. Sì. Resta inteso che se vogliamo stare sul piano del puro ragionamento da un cimento, no, è verissimo che Bergamo per un certo numero di anni è diventata una città nota, almeno a certi livelli, per le intemperanze del suo pubblico, per le violenze del suo pubblico. Questo è vero, io ho sentito tante volte in giro di però Bergamo che tifosi, è una fama anche meritata, perché ne hanno fatto veramente tante. Devo dire che dall'avvento dell'ultimo Percassi è servito un po' a calmare le acque, ma diciamo anche che è venuta facile la pacificazione, perché la squadra fa cose splendide, va benissimo, e allora capisci che secondo me la pace vera va verificata quando i campionati sono complicati. Mi sembra che Atalanta abbia imboccato la strada giusta, stadio compreso. Esatto, però l'idea, lì a Bergamo c'è stata questa grossa inchiesta con il boccia è stato costretto anche ai domiciliari, poi vabbè è venuto fuori tutto il corollario, no? Perché noi si parla di tifo violento e c'è qualche anima bella che pensa che sia ancora dire cornuto all'arbitro. Quando si parla di un certo mondo ultra, si va direttamente poi a scoprire che ci sono le dirette, c'è lo spaccio, ci sono la gente deve capire il fenomeno fare, non è una ragazzata o un eccesso di volgarità o di folklore. No, sono figure criminose previste dal codice penale. Io ringrazio Cristiano Gatti, che scrive Corsia su Corriere della Sera e di cui mi onoro di essere amico per questa chiacchierata. Grazie Cristiano, ci sentiamo presto. Adesso la borsa e poi torniamo. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. 800 24 00 24 è il numero per verde per intervenire su ogni argomento che vi pare sportivo. Naturalmente siamo partiti da Napoli, siamo passati per l'audizione dinanzi alla commissione antimafia di Lotito e De Laurentiis, Metti un giorno insieme, e adesso arriviamo nel nostro Giro d'Italia sportivo a una Milano che ha due facce diverse, come quelle di Franco Ordine e Fabrizio Biasin, perché io a questo appuntamento non posso rinunciare. Buongiorno a tutte e due. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Buongiorno, lo so che tu ci consideri ormai come Totò e Peppino, però ricordati, sì, ricordati che se noi siamo Totò e Peppino, tu sei la malafemmina. Io sono la malafemmina. E Pardo che oggi non c'è, che cos'è? Pardo che... oggi è contumacia, è il fontanone. È il fontanone. No, una Milano a due facce in cui Franco Ordine, il Milan spende e espande. Oggi Borini ha fatto le visite mediche, è il quinto acquisto della nuova era. Il sesto sarà Conti. A proposito di Conti, abbiamo alcune dichiarazioni dell'attuale atalantino. È stato il ripagamento di tanti sacrifici, è comunque un sogno che si realizzerebbe perché non è ancora definitivo, e sono molto contento e felice. Appena ho saputo di questa possibilità, io ho deciso che mi piacerebbe giocare nel Milan e adesso vedremo come andrà a finire. Quando ti incontrerai per parlare col tuo procuratore? Non lo so, magari nei prossimi giorni. Io so che domani si incontrano le due società per trovare un accordo e speriamo che vada bene. Questo è Conti, Gioiella Tarantino. Mi spieghi questo mercato, Franco Ordine? Ma guarda, questo mercato ha due caratteristiche. A dispetto di quelli che dicevano che i cinesi sono degli straccioni, non hanno una lira, eccetera, intanto credo che loro facciano tutto questo subito in quest'estate, perché poi eventualmente da ottobre in avanti devono fare i conti col Financial Fair Play, e quindi può darsi che non possono avere la libertà di fare operazioni nel futuro mercato del 2018. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica, che secondo me va molto valutata, è quella di rifondare completamente la squadra, pensando che fosse non all'altezza della situazione. Secondo me dietro questo calcolo c'è obiettivamente qualche possibilità di errore, perché io penso che il Milan dell'anno scorso, che nel finale non ha avuto due giocatori fondamentali come Abate e Buonaventura e non ha mai avuto per tutta la stagione Montolivo, non fosse così male. Terza caratteristica fondamentale, secondo me, a questa squadra che ha già fatto praticamente l'80% del suo mercato, manca la figura del leader, esatto, cioè colui il quale che può giocare anche in panchina, però colui il quale deve in qualche modo incarnare, diciamo, la figura rappresentativa. Oggi, se tu vuoi scegliere tra i vecchi e i nuovi una figura rappresentativa, ti puoi rivolgere quasi ed esclusivamente a Montolivo piuttosto che ad Abate. No, l'uomo a cui tu ti riferisci è ad esempio Biglia, no? La cui trattativa sta andando per le lunghe, anche perché lo Tito spiega perché. Keita resterà presidente? Questo lo dovete chiedere a Keita. Biglia. O al suo procuratore, forse chiederete meglio. Biglia Milan. Chiedetelo a loro. chiedere a loro, sei tu il presidente. Invece, Franco Ordine, valutami il mercato dell'Inter, così poi facciamo rispondere via Sin. Stai attento a quello che dici. No, no, stai attento tu. Allora, il mercato dell'Inter, secondo me, è diciamo sì, vero e proprio, si apre il 1 luglio. Sì. Perché loro sono alle prese con questa scadenza del 30 giugno, che è una sorta di mannaia. Domani. Devo dire, sì, ma per il problema è che devono rientrare di un bel tot. Il vero problema, secondo me, è questo, che al di là di qualche operazione già preparata e confezionata, tipo quella dei due ragazzi del Genova, che obiettivamente dalle dimensioni economiche mi sembrano un po' esagerate, secondo me, qui da questo punto di vista, abbiamo perso un po' il lume della ragione. Io credo che faranno un'eccellente squadra. Perché lo dico? Non tanto perché per blandire Biasin, lo dici? No. Anzi, ho degli argomenti per fargli venire un mal di pancia. No, dico, non ce la farai, lo faccio. Sì. No, io dico, lo dico sulla base di questa banale considerazione, cioè del fatto che c'è il regista dell'operazione è Sabatini e io mi fido molto, e l'allenatore è Spalletti. Sì. Il vero problema, secondo me, ancora una volta, anche qui come sul fronte rossonero, è trovare in qualche modo anche qui un qualche rappresentante dello spogliatoio che possa mettere fine alle baruffe chiazzotte dell'anno scorso tra vari clan e possa in sostanza rappresentare un po' il senso d'appartenenza. Fabrizio, che rispondi? Sì, guarda, io sarò molto più sintetico rispetto a Franco. A me sembra che in questo momento sui due fronti milanesi ci sia un diverso modo di comunicare. Non ce n'è uno migliore dell'altro, però mentre il Milan mette tutto in piazza e fa una cosa che non è stata fatta negli ultimi 5 anni, cioè cerca il consenso dei suoi tifosi, e lo ha anche trovato. Le mette tutto in piazza, compra i giocatori. Compra i giocatori, ma li fa anche vedere, te li racconta, ti spiega come sono le trattative. Scusa, ma che deve fare? Scusa, ma che deve fare? Non ti ho interrotto. Scusatemi, non ti ho interrotto. Sto dicendo che questa cosa è molto bella, è giusto fare così, perché al Milan si erano abituati ai ristoranti di notte, quindi fanno molto bene a fare quello che fanno. Dall'altra parte, invece, per troppo tempo sono state fatte delle cose sbagliate a livello di comunicazione, e in questo momento il silenzio per qualcuno è la rappresentazione di incertezze. Io credo che invece sia una volontà chiara di fare le cose senza volerle pubblicizzare, per poi presentare un risultato, quello che manca da troppo tempo. Per cui sono due storie differenti, ma tutte e due gestite molto bene, secondo me. Sì, però attenzione, Franco Ordine non ha torto. Prima del traffico, prima che ti vengano i mal di pancia, mi esente, lo dico subito. Ce l'ho già. Non ha torto quando dice che mettere lì 60 milioni per prendere un 16enne e un 15enne. Carlo, io mi meraviglio di voi, che non capite che dietro queste cifre c'è molto di più dell'acquisto di due ragazzi, cioè c'è il tentativo riuscito di ovviare a quel problema che si chiama fair play finanziario, perché evidentemente il Genoa da qualche parte farà un piacere all'Inter sotto questo punto di vista. Poi 15 più bonus di 15 per Pellegrini, Salcedo 5 più 25 di bonus, eccetera eccetera eccetera, però mi sembrano tanti soldi. Sì, così come i 33 per Skriniar. È anche la prova che evidentemente Mr. Zhang non è uno che arriva e vuole farsi gli affari suoi, evidentemente ha un progetto a lunghissimo termine, cioè si può permettere e vuole fare questo tipo di investimento. Per carità, mi sembra un'operazione un po' all'inglese, al di là del fair play finanziario, però traffico un attimo e poi continuiamo questa amabile discussione. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. Franco Ordine del giornale, Fabrizio Biasin con noi di Libero naturalmente. Allora Ordine, fai venire mal di pancia a Biasin, poi te lo faccio venire io con Donnarumma. Sì. Dai. No, io volevo soltanto dire questo, che intanto quelli del Milan non è che possono nascondere i giocatori, gli fanno fare le visite mediche, quindi devono assolutamente mostrarli, anche perché superato le visite mediche e perfezionata la firma sui contratti, non c'è nessun'altra nessun altro ostacolo. Su questo sono d'accordo, voglio dire, arrivano i giocatori, fanno il loro normale percorso. Il problema vero, secondo me, il problema vero dell'Inter in questo momento credo che sia di scelta, cioè quello che sta facendo che stanno facendo Spalletti e Sabatini, e che stanno valutando se è vero, se è giusto, se è opportuno, come dicono i sacri testi, se è cosa buona e giusta liquidare Perisic piuttosto che, ecco, quelli inutili tipo Gabigol, Banega eccetera andranno via, ma soprattutto capire chi deve restare e chi deve andare via alla luce del comportamento della scorsa stagione è un'operazione molto complicata, perché sembrerebbe da una visione molto superficiale che tu prendi questa squadra e la devi cambiare per 8 undicesimi. Ma non è così. È stato chiarissimo Spalletti nel giorno dell'insediamento, cioè in questa squadra c'è bisogno di sentirsi interisti al 100%, non è solo un problema di capacità di gioco, se uno è fortissimo ma non sente l'Inter al 100% è invitato ad andarsene. Scusa Fabrizio, no, volevo dirti che Spalletti sia chiarissimo, mi sembra un'esagerazione. Anche questo è vero, anche questo non lo capisce nemmeno la moglie quando parla. Perché Franco è avanti 100 anni, bisogna stare al passo con Spalletti. Io ho parlato con la famiglia, mi hanno detto che lui quando parla dei comportamenti non lo capiscono nemmeno loro. No, ma io dico semplicemente che secondo me in un diverso contesto gli stessi giocatori possono avere una resa diversa. Questo ad esempio, pensiamo a Zeko, passiamo a molti altri. Ad esempio, io sono convinto del fatto che se De Sciglio andrà alla Juventus vedremo un altro giocatore come l'abbiamo visto in nazionale. Di questo rimango profondamente convinto. Appuntamento ai prossimi mesi. No, perché dici no? No, secondo me no, perché il ragazzo che pure ha delle doti, non eccelse ma ha delle doti, però ha come dire, un carattere e un temperamento da pecorella smarrita. Però i capi branco ci sono nella Juventus, certo. I capi branco ci sono nella Juventus, come ci vuole il lupo, ci vuole il lupo che lo porti nel cresce, capito? Carlo, dimmi a Fabri, proposito di lupi, mi concedi 5 secondi di numero? A sì. 40 chilometri da Milano c'è una città meravigliosa che si chiama Como. 3 mesi fa la signora Essien, moglie di cotanto centrocampista, ha acquistato il Como per 2.000 lire, 200.000 euro. Dopodiché è scomparsa. Oggi il Como probabilmente non si iscrive alla Lega Pro e scompare dal calcio professionistico. Dove sono i controllori? Dove sono i controllori? Non chiederla a me dove sono i controllori, perché io non ti so dare una risposta. Però ti faccio un regalo. Vai, lo prendo. La possibilità di far venire tu a Ordine il mal di pancia, poi chiudiamo. Ordine il mal di pancia sulla questione di Donnarumma, dai. Ma guarda, su Donnarumma io credo che ci sia ancora un enorme punto interrogativo legato a tutta la faccenda, perché noi la facciamo facile, un giorno diciamo la trattativa è rotta, il giorno dopo diciamo sicuramente firmerà il rinnovo. Io non sono così convinto che le cose siano così limpide e chiare, non abbiamo ancora capito quando si siederanno al tavolo per trattare che cosa, perché l'unica certezza è che fino ad ora Mino Raiola non ha dato risposta alla proposta del Milan. Qui non è un problema di soldi, la proposta da 5 milioni più bonus per 5 anni non è stata valutata, e questa cosa secondo me è incredibile, così come è incredibile e inaccettabile quello che è successo negli ultimi 15 giorni, la domenica social e la domenica di Monte Carlo. La domenica social, la domenica di Monte Carlo, e poi come abbiamo raccontato l'altro giorno una storia in salsa italiana, compresa quella degli spaghetti, Montella, gli zii, nonni, di tutti quanti, una meravigliosa frittatona italiana, Ciccio. Sì, no, anch'io non metterei la firma sul fatto che finisce la favola lieto fine, ma non perché non mi fidi di Donnarumma, famiglia e del Milan, ma perché in questo caso la variabile impazzita è naturalmente sempre lui, il Sormino da Monte Carlo, il quale secondo me tra qualche tempo si ritroverà in mezzo a due ganasce. Da una parte l'indagine aperta ufficialmente dalla FIFA, e dall'altra parte credo anche qualcosa di più antipatico come quella dell'Agenzia delle Entrate a proposito dei suoi guadagni sul territorio italiano. Ma al di là di tutto questo, io credo che siccome si è dimostrato che il metodo Raiola non ha fatto altro che far precipitare Gigio Donnarumma in un pozzo nero di veleni, contestazioni e di un rendimento tecnico scadentissimo, credo che a questo punto la regia dell'operazione sia nelle mani della famiglia, e io a questo punto mi fido più di Don Alfonso che di Mino Raiola. Ma guarda, io quando sono di mezzo alle famiglie ho sempre qualche dubbio, però al di là di questo, se poi mi vengono a raccontare dalla Nazionale Under 21 da Di Biagio in giù che tutto questo casino di mercato non ha influito sul rendimento dei giocatori Donnarumma compreso, c'è da stare a preoccuparsi, è successa una cosa inedita e secondo me da non rivedere mai più: una conferenza stampa con un giocatore che il giorno prima passa la giornata a trattare i fatti suoi e il giorno dopo ci racconta che invece pensava solo alla nazionale. Chiudiamo le porte da tutto questo. Davanti, dimentichiamo tutti. Intanto vi ringrazio tantissimo, ragazzi, è sempre meraviglioso. Un abbraccio a voi, ciao. Franco Ordine, Fabrizio Biasin, chiudo questa prima ora con Silvio da Vicenza. Buongiorno Silvio. Sì, buongiorno. Dica. Ascoltavo molto attentamente e vabbè, ne avevate già parlato, però la mia perplessità fondamentale era legata al fatto di come si possa pensare di pagare cifre di 60 milioni per due ragazzini. È vero che un privato dei suoi soldi ne può fare quello che vuole, però bisognerebbe lanciare forse qualche messaggio anche dai vostri microfoni, oltre che da parte degli ospiti che intervengono. Che messaggio vuole che lanciamo? A me sembra un'operazione, cioè, a cifre spropositate. Poi un giorno chiamiamo Belinazzo, che da Sole 24 Ore, che può spiegarci perché era qui ieri. Però mi sembra un'operazione molto inglese, no? Quella di stanziare pubblicamente una cifra di questo tipo per due ragazzi, uno dei quali ha 15 e l'altro ha 16 anni. Magari diventeranno i nuovi Messi e Cristiano Ronaldo, lo auguro a tutti quanti. Però anche a me sembrano un sacco di soldi, ma ripeto, mi sembrano un sacco di soldi anche i 33 milioni di euro, che è la valutazione che viene data da Inter Sampdoria a Skriniar, buon giocatore che abbiamo visto ballare una stagione con la maglia della Samp. Ci fermiamo qui per il GR, subito dopo torniamo con molti altri argomenti. 800 24 00 24, molti altri argomenti per intervenire, ovviamente numero verde. Molti altri argomenti che passano da Ostrava e da Bolt, vanno al Manchester United, vanno alla nuova Milano del Basket, vanno alle follie dell'NBA. Insomma, state con noi. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo, tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Dunque, partiti da Napoli, passati attraverso la commissione antimafia con Aurelio De Laurentiis e Lotito, attraversata Milano con Ordine Biasin, ecco che arriviamo ad Ostrava. Strano giro quello di oggi, quello che vi proponiamo con il mio e nostro amico di Fox, Nicola Roggero, che ieri sera, tanto per cominciare, ha raccontato un meeting che non so se definire storico è tanta roba, è troppa roba, Nicola, però per la prima volta abbiamo visto Bolt correre due gare sopra i 10 secondi. Ciao Nick. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come tu hai sottolineato più volte, è chiaro che non ci si può più aspettare da Bolt il rendimento che aveva nel 2008-2009 alle Olimpiadi di Pechino e soprattutto i mondiali di Berlino, quando stabilì un tempo straordinario, no? 9,58, 19,19. Mi stai dicendo che gli anni passano anche per lui? Ma è già un miracolo, perché noi, cioè il grande pubblico, conosce Bolt diciamo dal 2008 Pechino, quindi da 9 anni. Sì. In realtà Bolt ha cominciato a incantare il mondo dell'atletica, per chi è più appassionato, nel 2002, quando aveva soltanto 16 anni e aveva vinto il mondiale juniores, dando quindi 3 anni di vantaggio agli avversari, e quegli anni corse poi in 19. Scusate un attimo. Sì. Io sul treno devo indicare il biglietto al controllore. No, fai pure, salutacelo anche, il signor controllore. Saluti da Radio 24. Grazie, saluti i treni. Lui corse quell'anno lì i 200 metri in 19,93 a 17 anni. Ora voi capite che è qualcosa di totalmente anormale. Quindi è da 15 anni che Bolt è sulla cresta dell'onda, è un periodo non innaturale, è più o meno il triplo di quello che solitamente è consentito a un velocista. Lo so, Nicola, però quando sei di fronte a un grande campione vorresti che non finisse mai, no? Ma ieri io parlavo di effetto Beatles, quando tutti capivano che i Fab Four potevano essere alla fine dei loro giorni, ovviamente c'era la corsa ad accaparrarsi i vinili, non più ad ascoltare i loro concerti, perché non si esibivano dal 1965 in scena. Se non sbaglio, l'ultimo fu allo Shea Stadium di New York. Potrei sbagliarmi. E quindi ci si aggrappa a qualunque cosa, però bisogna rassegnarsi. Qui non c'è una Yoko Ono, ma c'è il tempo che passa, ed è un tempo che ovviamente poi chiede le sue fatture, chiede di essere pagato come dividendi, schiena, arti, punture, legamenti, ossa, sì, e tutto quanto. Chiaro. Per cui è normale, è normale che tutto abbia una fine. È capitato ai più grandi campioni, è capitato, ieri facevo il caso di Michael Jordan, ecco, anche per Michael Jordan. Bravo, c'era qualcosa di molto simile a Bolt tutte le volte che le vedevamo, vale per tutti, vale per tutti. Tutte le volte che si parlava di Last Dance, come ha dipinto Phil Jackson, tu sai, poi parliamo anche di Phil Jackson che è stato cacciato dai Knicks, ha dipinto quell'ultima stagione di una squadra leggendaria, Chicago Bulls magari sono stati, per usare un accostamento, i Beatles dell'NBA. Beh, ti viene chiaro che vorresti far passare il tempo con il contagocce, però insomma Bolt correrà ancora una volta a Monte Carlo e siamo a 39 giorni dai mondiali che ci aspettiamo faccia di nuovo suoi. Al momento non sarà facile, perché se corre in 10.06 come ieri, con 10.03 come a Kingston, è un po' pochino. Però Bolt, secondo me, tra 40 giorni correrà molto più velocemente, e non bisogna sottovalutare quello che è l'effetto Bolt, cioè il trovarsi accanto a in corsia uno che da 10 anni non perde. L'unica volta che l'ha fatto perché ha fatto una falsa partenza. È chiaro che scombina tutti i piani e tutti i giochi, per cui mi aspetto un Bolt ancora molto competitivo sui 100. Il fatto che non sia più il vero Bolt è già dato dal fatto che lui rinuncerà ai 200 metri questa volta, anche perché io mi ricollego a ieri, vedendo quello che ha fatto Van Nicker, che ieri sui 300 metri, considerando che Van Nicker correrà tra la doppietta 400-200, ma Van Nicker arriverà tranquillamente in 19,80. È nuovo che avanza. Per usare una pessima espressione. Senti Nicola, invece ieri è tornato a saltare Jimbo Tamberi, 2,20 m, dopo un anno, quell'infortunio dolorosissimo per molti aspetti, non solo fisici ma anche emotivi, però non era così contento. So che avete avuto uno scambio di messaggi. Sì, non era contento perché lui ha avuto delle ottime sensazioni di riscaldamento. È chiaro che dopo un anno, è sempre incredibile spiegarlo a chi magari non è addentro, anche un gesto apparentemente semplice come il salto in alto è una composizione di gesti, è un mosaico di gesti che vanno rimessi tutti insieme, e dopo un anno non è facile. Un conto è l'allenamento, un altro conto è la gara. Jimbo non era ancora in condizione di cercare una misura, non ha espressamente detto che andava ad Ostrava e andrà fra l'altro anche a Parigi. Qui faccio un po' di conflitto di interessi personali, il meeting su Fox Sports, Diamond League, a Parigi il prossimo sabato, domani, dopodomani sera alle ore 20, cioè, quindi Jimbo sarà protagonista a Parigi proprio per ricercare quelle sensazioni e quell'adrenalina che soltanto la competizione può dare. È chiaro che in questo momento pensare a un Tambieri che risalti, ma non dico 2.39, ma anche soltanto un 2.30 è fuori dalla logica. Chiaro, oggi. Chiaro, tra un mese chiaro. Sarà diverso. Io mi accontento già che a Parigi rimette insieme tutto il puzzle. Certo. E arrivi magari da, non so, un 2.24, 2.25. Con calma ricostruiamo, ricomponiamo Tamberi. Tu ieri? Gli ho suggerito, visto che lui era abbastanza arrabbiatello nel messaggio, gli ho suggerito di prendersi una buona birra, sono curioso, che t'ha scritto? E lui Adello. No, una buona birra, era arrabbiato, lui ha detto che seguiva il mio consiglio e che la buona birra ragionevolmente l'avrebbe tirato su di morale. In Repubblica Ceca non si può non prendere delle birre, delle buone birre, perché la fanno di ottima. E sono convinto che non solo per la birra, ma a Parigi andrà già molto meglio. Non è male neanche la birra di Manchester, del cui United tu sei tifoso. 70 milioni per Belotti respinti al mittente. Sulla clausola c'è scritto 100. 70 milioni per Belotti. E qui però mi ci sono un conflitto di interesse, perché io però non vorrei partire Belotti dal Toro. Bravo, c'è un conflitto di interessi. comunque vada, sai, rimane nel cuore, no? Io sicuramente, io peraltro, se posso esprimere un parere personalissimo, obiettivamente 70 milioni per un giocatore che al momento non ha ancora nessuna esperienza, per esempio a livello di coppe internazionali, obiettivamente una grande cifra, una grandissima cifra. Poi io fossi in Belotti magari starei ancora un anno prima, perché avrei la sicurezza di giocare, perché entrerei ancora di più nel cuore dei tifosi di questa squadra e perché mi lancerei in vista del mondiale, dove ragionevolmente potrebbe essere un bel protagonista con l'Italia. A Manchester magari questa garanzia non ce l'ha, per andare a Manchester a tempo ancora l'anno prossimo, quindi ecco, si potrebbe magari studiare. Adesso non vorrei dare delle notizie che non ho, ma che semplicemente rifletto il mio pensiero. Si potrebbe studiare un'ipotesi che il Manchester con offerta al Torino e il Torino viene di tenere Belotti ancora un anno e poi lo manderà all'Old Trafford dopo il Mondiale 2018. Secondo me sarebbero contenti tutti, specialmente se si arriva veramente quella cifra lì. Sì, invece sul fronte Chelsea si continua ad insistere per Bonucci e Alessandro. La Juventus ha detto Bonucci potrebbe anche avere Alessandro blindato e secondo me non è una cattiva idea. Beh, detto, se fossi il direttore dell'aeroporto di Torino sarei molto contento, perché c'è un traffico tra Torino e l'Inghilterra che probabilmente la British Airways ora l'Italia aumenteranno sicuramente i voli. Visto Conte, visto Darmian, appunto adesso eventualmente Belotti e Bonucci, non lo so. È chiaro che probabilmente è questione di cifre ed è chiaro che la Juventus in questo senso potrebbe fare un ragionamento diverso rispetto a quello del Torino per Belotti, cioè ritenere che con Bonucci siamo arrivati alla fine comunque di un ciclo che è stato straordinario per la Juventus, perché sono arrivati 6 titoli, perché sono arrivati 2 finali di Champions. Non sono di quelle che ritiene che se uno perde la Champions non l'ha vinta e basta. No, se uno arriva alla finale ha fatto comunque una straordinaria stagione, un grande risultato sportivo. E quindi la Juventus potrebbe ragionare magari di monetizzare Bonucci in favore magari di qualche giovane. Io vedo, per esempio, già Rugani e Caldara già acquistato, quindi sta pensando ovviamente al futuro, come giusto. Grazie Nicola, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Nicola Roggero. Dunque, prima di trasferirci da Ostrava in questo curioso giro a New York City, Aldo dalla provincia di Modena, quindi da Ostrava a New York, dove c'è Simone Sandri, grazie, passando da lei, da Modena. Dica. Io vorrei sapere, secondo lei Carlo, il mercato del Napoli, com'è una valutazione? La valutazione secondo me è ottima, perché il mercato del Napoli va valutato nel modo che abbiamo spiegato molte volte, cioè quello dei rinnovi dei giocatori di quella squadra, di questo patto per comunque continuare su questa strada, e di conseguenza De Laurentiis ha in pratica ha abbattuto quel muro che aveva giustamente eretto il tetto salariale e ha rinnovato i contratti dei giocatori che, importanti di questo Napoli. Poi il resto è una questione di completamento, di svecchiamento, anzi, anche il Napoli lo sta facendo con acquisizioni di giocatori molto giovani. Dunque mi sembra una valutazione ottima se la leggiamo in controluce in questo senso. Da Modena, come anticipato, a New York City, Simone Sandri, buongiorno. Pomeriggio Carlo. Ciao Simone. Allora, Revolution Number 9, per usare il titolo di una canzone dei Beatles di cui parlavamo prima, nella notte, perché i New York Knicks hanno dato il ben servito al signor Phil Jackson, che stava seduto sulla poltrona presidenziale, senza grandi risultati in realtà. Veramente ieri è stata una giornata sconvolgente per l'NBA, perché in 3-4 ore sono successe un sacco di cose. Sicuramente un fulmine a ciel sereno, il licenziamento di Phil Jackson, che aveva fatto terra bruciata tra i fan newyorkesi da diversi mesi, se non da almeno una stagione e mezza. Però Dolan sembrava non sentirsi, sembrava avere totale fiducia nei confronti di Phil Jackson, tanto che 2 mesi fa aveva rinnovato la sua opzione per altri 2 anni, quindi il suo ricco contratto di 5 anni a 12 milioni l'anno, il GM, praticamente il dirigente più pagato nella storia della NBA. Certo, posso dirti la verità, Simona, ma io il lavoro di Jackson a New York l'ho capito abbastanza poco. Ora voleva cedere Porzingis, c'è questa pietra al collo dei Knicks che si chiama Carmelo Anthony, un perdentone multimiliardario. Ho capito poco l'idea di squadra che voleva costruire Phil Jackson, genio della panchina, che per la prima volta si trovava in quel ruolo. Sì, credo non l'abbia capito quasi nessuno, e anche perché ogni stagione provava un esperimento diverso. Quest'anno ha provato con veterani, facendo degli errori clamorosi, perché la firma di Rose poteva anche starci, anche se poi alla fine è stata una stagione altalenante con problemi fuori dal campo, ma la firma di Noah alle cifre, il contratto firmato con Noah è un contratto assurdo. Ogni anno sembra che la squadra sia pronta a rinnovarsi, sia pronta ad avere un progetto di un certo tipo, ma Phil Jackson non riuscì a farci capire che tipo di progetto, non è riuscito a farci capire che tipo di progetto, e ha trovato questa splendida scelta al draft, il Bertone Porzingis, che è senza dubbio il futuro dei Knicks, ed è riuscito ad alienare anche lui in quest'estate, dopo aver praticamente detto al mondo che avrebbe ceduto Carmelo Anthony. È riuscito ad avere un rapporto conflittuale anche con Porzingis, addirittura arrivando a dire che avrebbe messo in tavola un potenziale trade nei confronti, cosa che ha fatto veramente infuriare tutti, ed è credo sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però devo dire, il timing è veramente assurdo, perché da un lato Phil Jackson ha potuto gestire il draft, ha scelto un giocatore che praticamente rispecchia le caratteristiche che cerca Phil Jackson, un giocatore che in teoria va bene per l'attacco al triangolo con il francese Frank Nitidilina, ma il problema è che 2 giorni dopo è stato licenziato, per cui si ricomincia da capo. Però i Knicks si ritrovano ovviamente il giocatore scelto da Phil Jackson, quindi tutto al buio nel regno della totale improvvisazione. Non è un caso che non vincano un titolo da 73 quando Phil Jackson era in campo. Un'ultima cosa per chiudere: in queste 5 ore che hanno sconvolto l'NBA, Houston si è portato a casa Chris Paul. Una trade abbastanza inaspettata, interessantissima, perché vedremo questo backcourt di Harden e Paul, 2 giocatori che hanno tutti e 2 bisogno della palla, e vedremo se Mike D'Antoni riuscirà a farli coesistere. È molto molto affascinante secondo me questa come trade, ha dei punti di domanda. A me io sono convinto che alla fine riusciranno, Mike D'Antoni riuscirà a gestirli. Chris Paul comunque è un giocatore molto altruista. Harden ha voluto e ha chiesto specificamente, ha parlato con Chris Paul già da diverse settimane, per cui sembra essere on board con questa operazione, per cui è una secondo me una buona operazione per Houston, che ha probabilmente ancora qualche cartuccia da spendere, perché sta guardando anche a Paul George, sta guardandosi in giro per cercare di migliorare la squadra. Certo. Non credo che faranno arrivare al livello dei Warriors è veramente dura, quasi impossibile. Secondo certo, me. Almeno per ora. Però provando, sono quantomeno sono sulla strada. Grazie almeno Simone. Almeno ci provano. Grazie Simone Sandri da New York. Rimaniamo tra poco sul basket, ma passando per Napoli, Maurizio. Buonasera signor Carlo. Buonasera Maurizio. Dica. Allora, io sono sono un decano degli stati dello stadio napoletano, quindi sono 58 anni che vado allo stadio. Benissimo. Volevo in merito alla, si parla, si fa sempre con la bocca piena, tavoli, tavolini, tavoli rotondi, tavoli quadrati, dei problemi della mafia negli stadi, antimafia, Camorra e tutto il resto appresso. Ma mi dispiace che non c'è parte, mi dispiace anche che non è intervenuto Giordano. Tutti i giornalisti, oppure Bellinazzo. Giordano è intervenuto prima all'inizio. È un argomento molto scottante. Qua si parla tanto di mafia e come la pelle, e poi dopo si tolgono 10 anni a un signore che sta in carcere. E quindi come vogliamo combattere questa mafia, questa degli stati? Come vogliamo combattere questa mafia negli stati? Se non lo sanno loro signori che stanno seduti dietro il bancone della commissione antimafia, che sembra cadere dal pero. A me lo chiede, o a Pardo, o a Giordano che è intervenuto prima, come la vogliamo combattere? Devono dircelo loro, mica possiamo dirlo noi, poveri tapini. Luca Chiabotti, buongiorno! Buongiorno! Ciao Luca, a me arriva un messaggio che prima l'abbiamo detto anche nel GR, Pianigiani, a Milano, si sapeva, è ufficiale, mi scrivono, viene per l'Eurolega semplicemente per riordinare le idee di Milano. Allora, 2 anni con il suo ex vice Banchi, uno scudetto e un fallimento. 2 anni con Repe già, uno scudetto e un fallimento. Adesso Pianigiani. Sicuramente un allenatore di livello, di alto livello. Come al solito, da anni sostengo che fino a quando Milano non avrà una persona, diciamo, nel ruolo tra il presidente e l'allenatore, un ruolo tecnico però autonomo e diciamo prestigioso, qualsiasi allenatore che verrà a Milano avrà dei problemi. E non vorrei citare il fatto che secondo me la Pianigiani viene da un'esperienza, da una finale brutta in nazionale, per rapporti personali col presidente federale che si sono deteriorati dopo diverse valutazioni tecniche. Sì. Quindi voglio dire, ci vuole questa figura, dopodiché non la vogliono prendere. Pianigiani, spero che questo possa dire la parola fine per una grande riappacificazione nazionale, ricordandoci che da tutto quel brutto coso che c'era a Siena, che aleggiava su Siena, per tutti questa cappa che c'era su Siena, dobbiamo ricordare che la Siena di Pianigiani giocava una pallacanestro meravigliosa che non abbiamo più visto, di altissimo livello, anche a livello internazionale. È stato l'ultimo grande momento di pallacanestro, parlo tecnicamente, che si è visto in Italia. Sì, vero. E quindi dimentichiamoci di tutte le tifoserie spaccate, Pianigiani, la di Siena, qui su giù, cerchiamo di ricordarci che quella Siena là comunque giocava una pallacanestro che oggi il campionato italiano si sogna. Poi Milano continuava a prenderle i giocatori, però non funzionavano allo stesso modo, perché non era la stessa squadra, Luca. Quella figura a cui facevi riferimento sarebbe il, visto che parlavamo di Mike D'Antoni, il cappellare della situazione, no? Ma guarda, ci vuole secondo me semplicemente una persona tecnica che sappia, che sia dalla parte della società, ma che possa giudicare tecnicamente le cose, che è quello che, voglio dire, serve nei momenti di crisi, perché quando si vince e quando va tutto bene, allora meraviglia. Nel momento in cui bisogna prendere delle decisioni, secondo me Milano non ne ha prese di così buone, che non significa niente, ecco, la qualità, perché Milano è una grande società, ha fatto delle cose splendide, basta pensare al Forum Pieno, è un'impresa che non era mai riuscito a nessuno, quindi ha fatto delle cose meravigliose, è una squadra di livello internazionale che però casca sempre nel momento della crisi su cosa facciamo, cosa non facciamo, come valutiamo un giocatore. Abbiamo preso Radulica, non lo facciamo giocare. Non lo mandiamo via, insomma, prendiamo Gentile, non lo mandiamo, insomma, c'è stato troppe cose poco chiare a livello, voglio dire, proprio tecnico. Difficili da capire, troppe cose incomprensibili. Incomprensibili che, viste le dimensioni anche degli esborsi di, esattamente. Invece, probabilmente ci vuole qualcos'altro, e che non può essere l'allenatore, no, perché anche l'allenatore deve sottoporsi al giudizio, diciamo, della società. Della società ci vuole qualcuno che il presidente, che tra l'altro, ovviamente, essendo un top manager dell'economia italiana, deve fare il top manager dell'economia italiana. Bravo Luca. Noi veniamo sempre da voi senatori, da te, da Vincenzo Martucci, eccetera, eccetera, quando vogliamo pareri autorevoli. Con Luca Chiabotti io chiudo questo programma, ufficialmente lo dichiaro chiuso, con Giorgio De Luca, autore, Andrea Roccabella in regia, Edoardo Lavezzari in redazione, ma ci sentiamo domani alle 2. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!